d'estate. E le notti sono stellate, le case tutte quante illuminate. A New Orleans, a Bessie Street, nel vecchio strano quartier, la notte, notte non è, e sai perché, vivo un di musica c'è. Senti il clamor degli occhi tonchi salir, nessuno vuole dormire, ma tutti vogliono già. Sono calde le notti in Louisiana, dolcissime il profumo di magnolia e fiore, e quella musica strana ti invita a sognare l'amor a Bessie Street. Tu puoi dovunque vedere i bianchi e i negri suonare il blues di Bessie Street. Calde le notti in Louisiana, dolcissimo il profumo di magnolia e fior, e quella musica strana invita a sognare l'amor a Bessie Street. Tu puoi dovunque vedere i bianchi e i negri suonare insieme, cantare il blues.